uno stato di concentrazione, e qui non parlo neanche della meditazione, che è qualche cosa di ben più avanzato e difficile, come diceva Carlo Sini in una interessantissima conferenza, dove appunto da laico, alludendo alla meditazione, diceva: è una cosa difficilissima, non è per me, io non ho la chiamata alla meditazione, ma io rispetto tantissimo chi medita, perché mi rendo conto di quale lavoro preliminare si deve fare per arrivare allo stato di meditazione. Ci vuole tempo, quindi. Ci vuole tempo, impegno. Perché bisogna imparare a escludere tutti i pensieri dalla nostra mente, ovvero fare il vuoto mentale e concentrarsi su una cosa sola. Su questo non mi sento ancora pronta, ecco, devo dire. Capito, sulla respirazione ormai siamo sicuri. Ormai per noi è un gioco da ragazzi. Invece, allora, lasciamo da parte la meditazione, a cui magari forse ci arriveremo poi, sì, sicuramente con un lavoro che non può essere fatto per radio, sì, ma comunque magari mettiamo, come si dice, la pulce nell'orecchio a qualche nostro ascoltatore. Sicuramente, magari. E investiamo qualcosa, o meglio spendiamo qualche parola sul significato del silenzio. L'elogio del silenzio non solo quale occasione per togliersi dal frastuono generale, dal rumore continuo in cui viviamo immersi, spesso inconsapevoli e nostro malgrado, o nostro malgrado. Anche in vacanza, è sempre anche così. In vacanza più che mai, tra uno ricerca, i motorini, il diavolo a quattro, le cose infernali. Le in chiacchiere. Città non se ne parla, io non sono sbalordita, ad esempio quando si va dal parrucchiere, che viene imposta questa musica continua. Ma dico, ma se io avessi voglia di leggere un attimo, vabbè che io ho la capacità anche di astrarmi, di leggere e far finta che la musica non ci sia. Però voglio dire, è in qualche modo una violenza che mi sottrae un silenzio cui io ho diritto. Sì, anche se siamo talmente poco abituati al silenzio, che il silenzio inteso proprio come assenza di suono, che non sarebbe possibile, ma comunque fa un po' paura. Diventa quasi un frastuono. Diventa un frastuono. Sì, diventa quasi un frastuono. Ci capita quando magari siamo in campagna e ci sono dei suoni a cui molto più delicati, a cui non siamo più abituati, ecco, ma c'è un momento in cui questo silenzio parla molto, sì, e quindi ci fa quasi un po' paura. Però all'inizio, immagino che il silenzio sia comunque un aspetto che dobbiamo esplorare o provare a conoscere un pochino più da vicino. Sì, anche perché poi ci rendiamo conto, ed è comunque una condizione della mente cui noi dobbiamo tendere, una condizione di ascolto interiore, che vuol dire incominciare a imparare a stare bene con se stessi. E la rendersi... fa facile lei, ma è una cosa complicatissima. Ma però è questo, perché poi tra le altre cose, quando noi siamo in questa condizione di silenzio interiore, percepiamo l'ascolto e siamo stupefatti di questo silenzio così, così denso, ma che ci porta a contatto con la realtà che si svolge dentro di noi, quindi stupefatti, meravigliati della perfezione dei processi che si svolgono dentro il nostro corpo. E sicuramente la respirazione aiuta, perché nel concentrarsi per respirare nel modo corretto, un po' di silenzio lo facciamo, perlomeno ci concentriamo e sappiamo che i due aspetti sono strettamente legati. Esatto, no? Esatto. Però per tornare a quello che le interessava molto, ovvero la concentrazione, io proporrei due cose, se sono due mudra, praticamente due gesti simbolici molto significativi. Dunque, evidentemente a gambe incrociate, in una condizione di silenzio attorno, senza bambini o rumori radio, eccetera, eccetera. Quindi in silenzio, e se siamo in vacanza l'occasione la creiamo. Chiudiamo gli occhi e poi rivolgiamo lo sguardo nel punto tra le sopracciglia. E per essere sicuri di averlo centrato, esercitiamo una piccola percussione con l'indice della mano destra, sinistra. Lei è mancina, quindi sinistra mi sembra giusto. Sì. Ecco, perfetto. Una piccola percussione proprio per capire dove deve rimanere lo sguardo, deve rimanere fisso lì. E questo si chiama Shambhavi Mudra. Non sto a spiegare che cosa vuol dire, è una cosa un po' lunga, che fa un rapporto col mito di Shiva, eccetera, eccetera, Shiva e Shakti. Comunque lì già noi ci rendiamo conto che è come far scendere una tapparella, far scendere una cortina che ci isola un po' dal mondo esterno. Quindi gambe incrociate, occhi chiusi, la respirazione è sempre quella toracica, regolare. Sì, anche non toracica, normale, inspiro ed espiro, ma senza la panciona, quella no, assolutamente. No, la pancia sempre indietro, cioè sempre indietro. Il nemico ci guarda, assolutamente, e lo sguardo fisso nel punto tra le sopracciglia. E questo si chiama Shambhavi Mudra. Poi rovesciamo la lingua verso il fondo del palato e con la punta della lingua andiamo a ricercare il palato molle. Difficilissimo. Provato? No, non è difficile. Provi, insista. Trovato? Sì. Bene, adesso immaginiamo addirittura con la punta della lingua di perforare il palato molle e di raggiungere il punto tra le sopracciglia, ma dall'interno. È bellissimo. Prova. Ecco. Una volta lì, respiriamo lì, esattamente come se avessimo un sole splendente di fronte a questo punto tra le sopracciglia, cosiddetto terzo occhio, e potessimo inspirare da lì ed espirare da lì, proprio dentro questo sole. Quindi beviamo energia, respiriamo energia. Esattamente. Vede che a forza di lezioni alla fine anch'io... Brava. Bello, sì. Proviamo ancora una volta. Dai, allora, chiudi gli occhi. Sì. Adesso ti do del tu. Nicoletta, chiudi la bocca, chiudi gli occhi. Porta lo sguardo nel punto tra le sopracciglia. Percuoti leggermente con l'indice sinistro. Sì. Bene, e adesso, e lì va lo sguardo, Poi rovesciamo la lingua verso il fondo del palato e cerchiamo di raggiungere il palato molle. E da lì con la punta della lingua immaginiamo di raggiungere il punto tra le sopracciglia passando dall'interno. Forse ce l'ho fatta. Sì. Stasera riprovi. Quante volte dobbiamo provare questi esercizi? Se non ci vengono subito, io devo dire che è un po' barato. Bisogna insistere un po' tutti i giorni e bisogna apprezzare questo straordinario stato di concentrazione, di silenzio interiore, di bellezza, di armonia. E quindi ci alleniamo, ci esercitiamo ogni volta un'emozione diversa, magari una sensazione. Forse emozione, sensazione, brava, perché, sì, mi piace. Sì, perché sono delle situazioni che nella vita di tutti i giorni noi non proviamo. Non sperimentiamo mai. Per cui giocare, mi passi anche un po' il termine, sì. Con delle parti del nostro corpo, provare a respirare in un modo diverso. Potrebbe essere, per non farle a tutti, cioè non voglio banalizzarle, ma non voglio neanche fare, siamo in estate, un pochino di leggerezza ci vuole, potrebbe essere anche proprio un gioco, mettersi alla prova. Sicuramente. Volevo chiederle un'altra cosa, sempre sui luoghi comuni dello yoga. Ci sono persone che dicono che sia essenziale accendere qualche incenso per creare un po' l'atmosfera, come fare gli esercizi sempre un po' in penombra, e musiche che siano un po' in sintonia. Ecco, tutto questo che fa parte un po' del folklore dello yoga. È folklore, c'è qualcosa di vero? Approfitto di averla qua per anche conoscere qualcosa di più sullo yoga, perché ormai i corsi di yoga ce ne sono da tutti i posti. Sì. Ci sono diversi tipi di yoga, questo lei ce ne aveva parlato, sì. Magari avremo modo di conoscerle. Ci sono anche tante leggende metropolitane sullo yoga, no? Che è stato molto occidentalizzato, tante volte è proprio vestito di orpelli indiani che però non corrispondono alla realtà. Quindi, Ecco, andrei per eliminazione. Benissimo. Allora, cominciamo a eliminare ad esempio la musica, perché la musica non c'entra niente. Noi dobbiamo stare nel nostro silenzio e fare le nostre pratiche in silenzio. Sì. La musica poi quale? Perché se siamo in una sala di pratica in cui siamo in 20 persone, quello che può piacere a lei come musica può disturbare me tantissimo. Quindi non è detto che la cosiddetta musichetta New Age, che a me fa addirittura venire i brividi, possa essere la più indicata. Quindi escluderei la musica migliore è quella del nostro respiro e della nostra concentrazione. Un'altra cosa ancora, avevamo detto gli incensi. Sì, se l'incenso è buono, in effetti pulisce l'ambiente, c'è un odore gradevole, per cui va benissimo, sì. Se l'incenso le piace, quale consiglia? Io li faccio venire apposta dall'India perché devo dire che quelli che si trovano qui non sono buoni. C'è solo una fabbrica di Bangalore, non dico quale, perché sì. Dove fanno un buonissimo incenso puro, veramente puro. Quindi l'incenso, sì, l'incenso sulla musica, sulla soprattutto musica, nei corsi non è necessario. Se però uno si concentra di più con la sua musica preferita, beh, puoi a caso scegliere. Suo è liberissimo. Va nei bene. Corsi non la metto. Allora, con la musica, senza musica, con l'incenso, incenso, senza con incenso, incenso. Sì. Fate gli esercizi. Sì. Quelli di questa settimana sono un po' più difficili. Sì. Anch'io mi allenerò. Poi ci sentiamo la prossima settimana. Sì. Se avete qualche cosa da dirci, da raccontarci, se volete saperne di più, scriveteci. Essere benessere @radio24.it. Appuntamento con Lisetta Landoni la prossima settimana. Grazie. E per oggi è tutto. Un saluto e buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.